Faremo un intervallo ogni ora, va bene? Scusi? Faremo un intervallo ogni ora come per 5-10 minuti. Nessun problema. Eravamo arrivati al concetto di massa. Il concetto di massa, che ovviamente è centrale nel discorso, e diciamo che il concetto di massa, massa non come classe nel senso di specificazioni fortemente ideologizzate, a cui ci siamo stati abituati per tantissimo tempo, ma massa inteso come quantità considerevole di persone che a un certo momento si muove, scende in piazza e determina una situazione imprevedibile. Tenete presente che il rivoluzionario è quello che meno di tutti riesce a capire che cosa sta succedendo. Che prima di tutti? Meno di tutti. Ah, meno di tutti. Dici, può sembrare un paradosso, ma non lo è, perché il rivoluzionario è in genere una persona piena di schemi, piena di progetti, di modi di interpretazione. La gente no. Non è all'avanguardia il rivoluzionario? È l'avanguardia spesso volte una proprio. Una volta si diceva che il rivoluzionario era l'avanguardia della massa operaia. È la classe operaia. Comunque gli anarchici non si sono mai considerati avanguardia di nulla, e questo apparteneva evidentemente a concezioni che non sono specifiche degli anarchici, ad altre persone, altre concezioni politiche, altri modi, come dicevo prima, fortemente ideologizzati. Ma io, tornando al discorso di massa, la prima volta che la massa in epoca moderna, senza stare a scomodare a Spartaco l'insurrezione degli schiavi, ma in epoca moderna, nel 1871, quando per la prima volta scende in piazza una tipologia, anche di natura, dal punto di vista fisionomico, di persone che normalmente non vanno nella strada, ecco. E l'aristocratico Pareto si intimorì parecchio e trovò parole molto dure nei confronti di chi aveva reso possibile quel fenomeno. Ecco, l'insurrezione è quindi sognata dai rivoluzionari, immaginata dai teorici, desiderata da una ristretta minoranza di persone che ha preso coscienza, ma realizzata dalla massa. Quella è l'insurrezione. Il resto possono essere progetti, desideri, cioè dire pensieri non ancora vestiti di parole. Quindi qua si sta parlando di questa cosa, per la prima volta si sta accennando in tutto l'articolo al concetto di massa. La fine della funzione difensiva e resistenziale delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori corrisponde al crollo del centralismo classico della classe operaia. Consente oggi di esaminare in maniera differente una possibile organizzazione di lotta partendo dalle reali possibilità degli esclusi, cioè da quella grande massa di sfruttati, produttori e non produttori, che al momento si trovano di già fuori dall'ambito sindacale protetto o stanno per essere scaraventati fuori. Di chi si sta parlando qua? Si chiedono, io anarchico chiedo a me stesso, cosa posso fare davanti a questi grandi fenomeni di marginalizzazione? Sempre più persone perdono il lavoro, perdono la propria identità, perché l'essere lavoratore fino a poco tempo fa forniva non soltanto un salario, ma forniva uno status. Si identificava il lavoratore con la società, con la ditta con cui aveva il rapporto di lavoro, si identificava con la propria qualificazione. Adesso dalla scuola all'università, da qualunque situazione informativa si chiede soltanto flessibilità, adattabilità, modificabilità. Non si chiede più la qualificazione di una volta, per motivi che sarebbe forse troppo lungo approfondire in questa sede, ma che comunque sono sotto gli occhi di tutti quanti. Che cosa si può fare? In effetti, mi chiedo, l'anarchismo insurrezionale rivoluzionario, proponendo un modello di intervento nella realtà delle lotte che si fonda appunto sull'organizzazione di gruppi di affinità e sul coordinamento operativo di questi gruppi allo scopo di creare le migliori condizioni per uno sbocco insurrezionale di massa, incontra subito anche presso i compagni più interessati una difficoltà iniziale non facilmente superabile. cosa vuol dire per un profano, diciamo, per chi si trova all'esterno di questa serie di problemi, che suggerire un modello più agile, un modello di rapportazione differente che non sia quello classico dell'anarchismo tradizionale basato sulla federazione, sul congresso annuale o biennale, che lo sia, il congresso che approva un determinato programma, che discute determinati problemi, che divide gli interventi in determinati settori con commissioni di studio, eccetera. Tutto questo, secondo me, appartiene al passato, perché mimava, secondo me, una parte di quella che era l'anima partitica anche del movimento anarchico internazionale, il quale, pur essendo contrario all'istituzione partito, in fondo ne subiva l'influenza. Ma perché ne subiva l'influenza? Perché viveva esso stesso come movimento anarchico l'ideologia del quantitativo, della crescita quantitativa, il fatto che si era in tanti e conseguentemente si diventava significativi. Ma adesso che le condizioni reali del capitale si sono trasformate, esso stesso ci sta dando un'indicazione di lotta contro di noi che è diversa: non più tra l'età operaia, non più qualificazioni, non più crescita sul posto del lavoro, non più status riconoscibile, non più riconoscimento, ma la flessibilità, la variabilità. Ecco, un'organizzazione più agile, fatta appunto di gruppi piccoli, di persone che si conoscono e che si coordinano in funzione di una realtà di lotta di massa. Ecco il punto centrale, signor Presidente, su cui bisogna riflettere. Qua si parla di un'organizzazione insurrezionale di massa. Qua si teorizza la possibilità per gli anarchici di intervenire in situazioni di lotta per spingerli verso uno sbocco di natura insurrezionale e distruttivo. Quasi la mi è contito, signor Presidente, di qualcosa di molto più grosso, molto più significativo di una banale, limitata, circoscritta banda armata. Ma per quanto riguarda la realtà delle cose, i nuclei di base e i coordinamenti, che funzione avevano? Che c'è? Ci arriveremo, signor Presidente. Sul piano della teoria, perché vedi... Certamente. No, no, mi scusi. No, assolutamente no, signor Presidente. Sul piano della pratica. Sul piano della pratica. Se no perdiamo quello che abbiamo detto prima. Abbiamo speso una mattinata... Sul piano della teoria, l'inietta pratica. L'inietta pratica. Abbiamo speso una mattinata su questo argomento. Non per nulla. Dico bene. Allora, ci arriveremo subito, perché... Quindi per il momento io vorrei sottolineare questo rigo: per uno sbocco insurrezionale di massa, cioè dire sbocco che significa? Per condurre situazioni che oggettivamente hanno caratteristiche di sofferenza, perché ci sono grossi quantitativi di persone che avvertono una condizione non certamente felice, per sollecitare, per sviluppare questa condizione verso la possibilità di ribellarsi contro chi realizza questa situazione di sofferenza. Apriamo una piccola parentesi: qua non si tratta di condividere quello che dico io o di non condividere, mi sarebbe veramente allucinante presupporre da parte mia un'operazione di convincimento, di persuasione, perché molti giustamente potrebbero chiedere: ma quanto pazzo che viene a dirci che praticamente quanta gente sta male vuole esacerbare le condizioni di star male, portarle addirittura ad un attacco distruttivo con il potere per creazione, parliamo esattamente di questo. La gente va in piazza per sfasciare le cose, non per aggiustarle. Poi, attraverso la dimensione distruttiva, si realizza la possibile alternativa di trasformazione diversa, con condizioni diverse. Quello che sto dicendo io, quindi, appartiene ad una dimensione non soltanto altra della modesta, circoscritta, specifica banda armata, ma appartiene ad un problema di natura rivoluzionario che è certamente un grosso problema dello Stato, perché lo Stato non può trincerarsi dietro l'alibi e dire questi su teorie, conseguentemente è legittimo che chi le sostiene possa continuare a farlo, perché lo può fare soltanto perché ipotizza in astratto la possibilità che esistano teorie che non hanno conseguenze sulla pratica. Certo, non spetta a me stabilire quali sono le conseguenze, per quanto io porterò come documentazione due casi specifici di organizzazione pratica della realtà di strutture insurrezionali di massa. Subito dopo. Molti ritengono, questo quindi, questa continuazione riguarda il problema del movimento, sempre parlando del movimento anarchico, molti compagni ritengono che si tratti, la dimensione insurrezionale, ormai di qualcosa fuori dal tempo, che è decisamente fuori moda. Oggi le cose secondo loro starebbero diversamente. E qua continua il paragrafo parlando di queste possibilità diverse che si riconnettono invece a quello che accadeva 150 anni fa. Con quelle strutture e con le corrispondenti organizzazioni sindacali di resistenza, il progetto insurrezionale, cioè se fossero ancora valide le strutture del passato, classe centralizzata operaia, forti partiti comunisti, sindacati non semplici cinghie di trasmissione, ma effettivi rappresentanti di quelle che sono le richieste della classe degli sfruttati, se questo fosse ancora esistente, visibile davanti a noi, il discorso insurrezionale sarebbe lasciato da parte come un fatto, come dire, di improvvisa anomia del potere. Può capitare, può non capitare, con 100.000 argomenti. Qua invece noi ci troviamo davanti ad una trasformazione che rende, riporta un'altra volta sotto la luce critica di chi ha a cuore questi problemi la dimensione dell'attacco insurrezionale. Lo riporta sotto una luce differente. Quindi le strutture a cui ci riferiamo, sindacati, partiti e vecchie strutture rigide del capitale, non esistono più, sono scomparsi o sono profondamente trasformati. La mentalità di fabbrica non c'è più, il sindacato è una palestra per affaristi e politici, la resistenza salariale e difensiva in genere è un filtro per garantire passaggi dolci a livelli di costo della manodopera sempre più adatti ai nuovi assetti del capitale, la disgregazione, e quindi continua con la medesima analisi di prima. Tutto il paragrafo. Noi adesso non solo riteniamo possibile una lotta insurrezionale, ma nella totale disgregazione dei vecchi valori resistenziali pensiamo che questa sia la condizione verso cui dobbiamo incamminarci se non vogliamo accettare totalmente le condizioni imposte dal nemico. Questo è il paragrafo. E poi c'è quello che diventa praticamente il punto centrale secondo il testo delle annotazioni. Il paragrafo si intitola Organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionale. Quanto incredibile possa sembrare questa titolazione del paragrafo, c'è una sua storia. Corrisponde a quello che è scritto nell'imputazione. Signora. Organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionale. Sì, signora, ma mi consente. Siccome lei aveva detto prima che era un termine che non era stato mai usato, se non. No, ma sa cosa è stato detto? Dall'estensore delle imputazioni. Mi scusi, signor Presidente, ma anche lei mi consenta. Posso permettermi, sì, sì, casca sì. L'equivoco di attribuire alla titolazione di paragrafo la singolarità specifica di termine. Sì, sì, ma io lei dice è un termine. Lo metto in evidenza perché no, questa situazione perché lei chiarisca il punto. Ma sa perché è diventato, come dice lei, un termine? Perché gli sono state messe le maiuscole. Se lei piglia lo stesso paragrafo, ci mette le maiuscole, diventa un'organizzazione. È facile come scherzo, si usa normalmente in tutti i giochi delle tre carte di chi è pratico di scrivere roba di sto tipo. Qua c'è un paragrafo, si chiama l'Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica Insurrezionale. Mi posso permettere una piccolissima divagazione? Questo testo, come dimostrerò dopo, era una scaletta destinata a delle conferenze che io ho fatto nell'Università Greca 1983. Bene. E in greco esiste un problema per tradurre la parola informale. E quando ci sentimmo al telefono, quando la scaletta io la spedii prima di fare le conferenze, perché loro potessero tradurla in greco, fare una sorta di ciclo stellato, distribuirla alla gente, perché c'erano dei problemi di traduzione in diretta dall'italiano in greco. Io non conosco il greco moderno, quindi era necessario. Greco antico lo conosce? Oh Dio mio, lei mi mette in imbarazzo. Non so come ha detto che. Non dimentichi che sono il primo della classe, sempre giusto. Quindi. Quindi. E allora, in effetti la titolazione originale era organizzazione informale, anarchica e insurrezionista, che sarebbe più logico dal punto di vista del discorso. Però siccome non si poteva usare questa parola, si decise, chiusa la parentesi, mia stupidaggine nel ripubblicare in Italia questo testo, non riportarlo alla sua. Mi chiedo quale sarebbe stato l'organizzazione se invece di esserci rivoluzionaria diventava informale. O Iai, Iai era più difficile a farlo camminare con i suoi piedi di Orai. Pensiamo, quindi leggiamo questo testo, se mi è consentito, signor Presidente. Lei è consentito. Pensiamo che in sostituzione delle federazioni, quindi dei gruppi organizzati in modo tradizionale, modelli giustificati da strutture economiche e sociali della realtà ormai inesistenti e superati, vadano costituiti gruppi di affinità, costituiti da un numero non molto esteso di compagni, legati insieme da una approfondita conoscenza personale. Sì. Qua stiamo parlando di gruppi assolutamente alla luce del giorno. Sono compagni anarchici che fanno un lavoro nei quartieri, nelle istituzioni del lavoro, nelle scuole, in tutte le situazioni. Anziché, suggerisce da parte mia, anziché ricorrere all'organizzazione di tipo classico, federazioni e gruppi federati, invece di gruppi più snelli, basati ovviamente su una diretta e approfondita conoscenza personale. Gruppi, attenzione perché qua siamo proprio nel dito alla piaga, gruppi capaci di collegarsi tra di loro attraverso scadenze periodiche di lotta, che è anche sottolineato, avendo lo scopo di realizzare azioni precise contro il nemico. Scadenze periodiche di lotta significa situazioni, non dimentichiamo che prima è stato usato il termine massa, situazioni in cui la gente si trova in una situazione di sofferenza, in condizioni precarie, perché subisce un particolare sfruttamento. Ad esempio, io dopo parlerò di due situazioni. Questo tipo di ragionamento è stato applicato nell'organizzazione dei ferrovieri del compartimento di Torino nel 1977 e a Comiso durante il tentativo di impedire la costruzione della base, base missilistica americana nel 1983. Stiamo parlando di queste cose qua. Quindi, gruppi anarchici, specifici anarchici, non qualunque persona, ma gruppi di anarchici, basati su una approfondita conoscenza personale, capaci di collegarsi fra di loro per intervenire in una situazione di lotta oggettiva, specifica. Nel corso di questa azione si deve anche trovare il modo di discutere e quindi di approfondire gli aspetti pratici e teorici, non dimentichiamo la non possibilità di distinzione, delle diverse azioni future da realizzare. Riguardo gli aspetti pratici, ci si metterà d'accordo per le collaborazioni tra gruppi e individualità. Compagni che non vogliono far parte dei gruppi sono da soli, per me costituiscono un gruppo esso stesso, uno solo, trovando i mezzi, la documentazione e tutto quanto necessario al compimento delle azioni stesse. Riguardo le analisi, si cercherà di farle circolare il più possibile, sia per mezzo della stampa nostra, sia per mezzo di riunioni e dibattiti aventi per oggetto specifici argomenti. Il punto centrale attorno al quale fare ruotare la struttura organizzativa insurrezionale, perché individuato una condizione di sofferenza, di tensione sociale, chiamiamola come vogliamo, quello diventa un punto di riferimento. Quindi il punto centrale è quello attorno a cui fare ruotare la struttura organizzativa insurrezionale. Qual è questa struttura? Un insieme di gruppi di affinità che si mettono d'accordo fra di loro per intervenire in una realtà di massa. Quindi il punto centrale non è il congresso periodico di cui dicevamo prima, le federazioni del passato e anche del presente, ma è costituito dall'insieme delle situazioni di lotta, che possono anche essere diffuse nel territorio, può essere anche una soltanto, come è accaduto a Comiso o come è accaduto, poniamo, a Torino o in altri posti. I gruppi di affinità possono a loro volta contribuire alla costituzione di nuclei di base. E qua veniamo un'ulteriore chiarificazione. I gruppi d'affinità sono costituiti esclusivamente da anarchici, perché sono gruppi anarchici. I nuclei di base sono costituiti da anarchici, ma sono costituiti da persone che hanno il problema davanti ai propri occhi. A Comiso chiamammo questi nuclei di base leghe, quando ancora il leghismo era lontano da venire, ricordandoci delle leghe nostre siciliane del secolo scorso. Quindi i nuclei di base sono strutture minimali formate da persone all'interno delle quali ci possono essere degli anarchici, ma principalmente sono da persone che non hanno una coloritura politica, ma hanno soltanto un problema da risolvere. Perché qua non stiamo parlando di un'organizzazione parasindacale. Il nucleo di base non si sostituisce al sindacato, non paga il pullman per portare la gente alle manifestazioni, ma cerca di diventare un punto di riferimento per mettere insieme, per coagulare discussioni, progetti nella gente a livello di massa, ovviamente con l'intervento dei gruppi. Organizzato da chi il nucleo di base? I nuclei di base organizzati dagli anarchici, ma con la gente. Quindi i gruppi di affinità possono a loro volta contribuire, mi segue signor Presidente, contribuire vuol dire partecipare anche questo, alla costituzione di nuclei di base, non farli da se stessi, perché sarebbe un duplicato del gruppo di affinità. Lo scopo di queste strutture, cioè dei nuclei di base, è quello di sostituire nelle lotte intermedie, cioè dire una lotta salariale, una lotta per l'occupazione di una fabbrica, in qualunque situazione di massa in cui si verifica una condizione di sofferenza sociale. Quindi hanno lo scopo nell'ambito di sostituire nell'ambito delle lotte intermedie le vecchie organizzazioni resistenziali di natura sindacale, anche quelle che insistono sull'ideologia anarcosindacalista, che sarebbero le COBAS, le organizzazioni sindacali di base. L'ambito dell'azione dei nuclei di base è costituito quindi dalle fabbriche, per quel che di queste rimane, dai quartieri, dalle scuole, dai ghetti sociali e da tutte quelle situazioni in cui si materializza l'esclusione di classe, la separazione fra esclusi e inclusi. Sempre, signor Presidente, che casino, parole chiarissime, non hanno possibilità di essere interpretate diversamente. Ogni nucleo di base viene costituito quasi sempre dall'azione propulsiva degli anarchici insurrezionalisti, i quali sollecitano, chiariscono, partecipano, ma poi si fermano se la gente dice no, questo argomento non ci riguarda, noi vogliamo fare le cose che faccio io con il Partito Comunista di una volta oppure con i sindacati, non lo so, ma poi si fermano, non possono obbligare la gente a fare qualcosa. Ma non è costituito soltanto da anarchici il nucleo di base, se no non avrebbe senso, sarebbe un duplicato del gruppo d'affinità. Nella sua gestione assembleare il nucleo di base si riunisce e decide. Gli anarchici costituiscono, devono sviluppare al massimo il loro compito propulsivo contro gli obiettivi del nemico di classe, ma devono fermarsi, non possono andare oltre. Diversi nuclei di base, come è avuto l'esperienza di compito, adesso vedremo, si possono dare coordinamento stesso sul territorio col medesimo scopo, dandosi strutture organizzate più specifiche, ma sempre fondate su questi tre principi che vedremo: la conflittualità permanente, l'autogestione e l'attacco. Questi tre principi sono importanti, perché la conflittualità permanente intendiamo la lotta ininterrotta e incisiva contro le realizzazioni degli uomini che realizzano e gestiscono il dominio di classe. Quindi non c'è la dimensione sindacale che occorre l'autorizzazione dei dirigenti sindacali per poter fare una lotta. Chiunque, discutendo all'interno del nucleo di base, può dire: secondo me si potrebbe fare questa cosa, se viene accettata si fa, perché la dimensione conflittuale non deve essere autorizzata da qualcuno. Per autogestione intendiamo l'indipendenza assoluta da qualsiasi partito, sindacato, clientela, il reperimento dei mezzi necessari all'organizzazione di cui stiamo parlando, perché stiamo parlando di un'organizzazione costituita da nuclei di base e coordinamento di nuclei di base, di gente, cioè dire, che si trova in una determinata situazione di sofferenza. Di questo stiamo parlando, di una lotta intermedia. Il reperimento dei mezzi necessari all'organizzazione, a questa organizzazione e alla lotta deve essere fatto pertanto esclusivamente sulla base di sottoscrizioni spontanee. Però, come testo fondante di una banda armata non mi sembra male, signor Presidente. Per attacco intendiamo quindi il rifiuto di ogni patteggiamento, di ogni mediazione, pacificazione, compromesso col nemico di classe. Il campo d'azione dei gruppi di affinità e dei nuclei di base è costituito dalle lotte di massa. Cembaracca fu proprio isolato, il campo d'azione sia dei gruppi di affinità. Si trova a pagina 6, seconda colonna nel mezzo, e dei nuclei di base è costituito dalla lotta di massa. Ah, signori miei, fermiamoci un attimo, o le parole hanno un senso, oppure veramente qua io sto per tendervi un tranello micidiale, cioè vi sto imbrogliando proprio in maniera, come dire, indegna. Sto imbrogliando voi altri, ma principalmente, quello molto più grave, sto imbrogliando me stesso. Non si illuda troppo. No, io sto dicendo, se fosse così, se fosse così, starei per imbrogliarvi. Il fatto di riuscirci è un altro discorso. Queste lotte, le lotte di massa, sono quasi sempre lotte intermedie, le quali non hanno un carattere direttamente e immediatamente distruttivo, ma si propongono spesso come semplici rivendicazioni, difesa del salario, occupazione di una fabbrica, impedire la costruzione di portare i missili cruise a Comiso, avendo lo scopo queste lotte di recuperare più forze per meglio sviluppare poi la lotta verso altri obiettivi. Lo scopo finale di queste lotte intermedie resta dunque pertanto quello dell'attacco. Non dimentichiamo che noi non siamo, io non so, scusate il mio siciliano, noi non siamo sindacalisti, io non sono un funzionario del partito, io sono un rivoluzionario. Il mio scopo non è tanto quello di trovare il lavoro alla gente, a me personalmente non mi interessa che la gente trovi un lavoro, mi interessa molto di più lottare insieme alla gente che cerca un lavoro, perché la voglio spingere a continuare successivamente a prendere coscienza che è possibile che impiegando certi metodi dello Stato recarci d'indietro, faccia un passo indietro e continuare nell'attacco fino alla distruzione totale dello Stato. Questo è il mio progetto, evidentemente nei limiti della sua realizzabilità. Naturalmente singoli compagni o gruppi di affinità, indipendentemente da qualsiasi rapporto organizzativo più complesso, possono decidere di attaccare direttamente singole strutture, individui e organizzazioni del capitale dello Stato. Chiunque, in quanto anarchico, ha il diritto di decidere da solo quello che va fatto. Nessuno gli può dire che ha sbagliato, anche perché sennò la libertà diventa un gioco di parole, diventa il gioco delle tre carte. Noi costruiamo un enorme lavoro di tipo programmatico insieme alla gente, facciamo un compagno non è d'accordo, decida lui quello che va fatto, da solo, da solo. Non c'è qualcuno che è messo in minoranza e viene quindi scomunicato da un contesto. Questo si vuole dire qua, che è sempre possibile per qualunque anarchico di decidere da solo, perché è lui che deve rispondere davanti al tribunale della propria coscienza. In un mondo come quello che si sta consolidando sotto i nostri occhi, dove il capitale informatico sta ormai saldando definitivamente le condizioni del controllo e del dominio, ad un livello di completezza senza precedenti, applicando una tecnologia che non potrà mai essere usata in altro modo che per mantenere questo dominio, il sabotaggio ridiventa l'arma classica di lotta di tutti gli anarchici, di tutti gli esclusi, scusate. Perché il sabotaggio? Perché la parola sabotaggio viene dal francese sabot, che vuol dire zoccolo, perché nel secolo scorso, quando si impiantarono le prime spolette meccaniche, i tempi di lavoro erano talmente pesanti e talmente lunghi che gli operai spesso cadevano sfiniti. Allora, prima di cadere sfinito, un operaio prese lo zoccolo e lo buttò nella macchina, bloccandola. Quindi dal termine sabot viene il sabotaggio, quando cioè dire si attacca la singola macchina, il singolo strumento repressivo che si ha davanti, perché veramente non se ne può più, perché si è arrivati all'estremo limite. Secondo me il sabotaggio costituisce ancora uno degli elementi di lotta di massa, può essere diffuso, può allargarsi. Questa è la mia opinione, la mia tesi. E poi c'è un elenco del perché siamo anarchici insurrezionalisti. Io, volete, lo leggiamo, non è essenziale alla mia tesi. Perché lottiamo insieme tutti gli esclusi? Per alleviare e possibilmente abolire le condizioni di sfruttamento. Lottiamo insieme con tutti gli esclusi. Perché riteniamo possibile contribuire allo sviluppo della rivolta? Perché vogliamo distruggere un assetto capitalista della rete mondiale che grazie alla sua ristrutturazione informatica è diventato tecnologicamente utile soltanto ai gestori del dominio di classe? Perché siamo per l'attacco immediato e distruttivo contro le singole strutture, individui e organizzazioni del capitale dello Stato? Questa è la nostra teoria. Per questo un'organizzazione armata clandestina ci sta stretta di spalle, è un abito che non riusciamo ad indossare. Questo più o meno, con qualche piccolo rigo. I nuclei di coordinamento se ne parla in quello scritto? Sì, no, i nuclei di coordinamento, si parla dei coordinamenti. Sì signore, se ne parla quando si dice che i nuclei di base, se la necessità lo richiede, in quanto come è stato a Comiso erano decine in tutto il territorio del Ragusano, erano decine queste leghe, questi nuclei di base chiamate leghe, si dettero un coordinamento con sede a Comiso perché così si potesse discutere insieme. E siamo nel 1983, 82-83, due anni. E lo scritto che lei ha letto è stato stampato quando? Questo è stato stampato nel 90. Chiedo scusa, signor Presidente. Il documento che legge il signor Bonanno è allegato a una moltitudine. Sì, sì, certamente, abbiamo tante cose, ma ormai che ci siamo è meglio che precisi lui. Sì, avevo pregato il 93 di portarlo 93. Lì all'udienza. Credo che sia stato portato. Nel 1993. Sì. Se c'è da chiarire, siccome io reputo, forse non lo so, a torto, non saprei, che siccome è stato definito assolutamente fondamentale questo testo. Sì, per... lei ha fatto bene a leggere. Non lo so, se ci sono dei dubbi. Nel 1993. Questo è stato pubblicato nel 1993 ed è stato redatto pure nel gennaio del 93 in occasione di quella conferenza di cui parleremo dopo. Ora, torniamo un attimo sulla banda armata. Organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionale non esiste, si è detto in modo chiaro, è ipotizzata per la prima volta, che io in vita mia l'ho sentita sta banda armata, a pagina 5 dell'ordinanza di custodia cautelare. La prima volta l'ho letto là io, perché anche era l'unico documento che mi dettero in mano quando mi hanno arrestato. A pagina 21 delle annotazioni è indicata come organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionalista in esame. Ora, se riflettiamo un attimo, che cosa significa in esame? Cosa si esamina? Si esamina una cosa che esiste. Usereste la parola, il termine in esame per esaminare un sogno, un'ipotesi? L'ipotesi non si esamina, la si fornisce di corpo reale affinché viva. Quando diventa reale la si sottopone ad un esame. L'esame che cosa è? Se non una cosa fatta su un'indagine svolta su qualcosa che esiste. E siccome di questa organizzazione se ne è parlato a pagina 5 del mandato di cattura, a pagina 21 delle annotazioni se ne dà scontato esame. A pagina 41 delle annotazioni invece è scritto: in considerazione delle surriportate emergenze investigative, può ragionevolmente ritenersi Bonanno Alfredo Maria ricopra nell'ambito dell'organizzazione un ruolo di rango superiore, essendo il promotore, per averla creata, portando a conoscenza di terzi lo scellerato ed indiscriminato programma criminoso ed espletando funzioni di organizzatore, in quanto svolge con condotta perdurante attività essenziali e infungibili per assicurare l'efficienza dell'associazione in relazione alle finalità che la stessa segue, alla struttura organica funzionale che concretamente ha assunto. Che cosa potrei dire io, signor Presidente? Ecco, lei potrebbe dire su questo: esisteva una struttura associativa? L'ho già detto, esiste, l'ho detto, la prima cosa che ho detto, non esiste. Né è ipotizzata l'esistenza, se poco d'anzi ho detto, a pagina 5 dall'ordinanza di custodia cautelare. E siccome ho ipotizzato a pagina 5, a pagina 21 se ne fa un esame, come di cosa di già di corrente circolazione, e a pagina 41 si stila un dubbio italiano questo testo. Ragionevolmente, io non credo che sia necessario commentare questo testo. Ora, un'organizzazione del genere non esiste, signor Presidente. Io sfido chiunque in quest'Aula o altrove, in sede processuale o successivamente, a dimostrare il contrario. A me. Perché qua mi dice che l'ho teorizzato io, se no non alzerei tanto lo sdegno. Siccome si è parlato qui in Aula di un'organizzazione formata da due livelli, uno occulto e uno palese. Il livello palese si manifestava attraverso propaganda, attraverso circolazione di stampati, attraverso riunioni sempre di propaganda. E il livello occulto invece si rivelava con il movimento di nuovi che effettuavano espropri e altre azioni illegali. Lei su questa accusa cosa ha da dire? Io mi permetto di prospettare queste circostanze perché è su questo che la causa gira. Io penso che questo discorso sia spiegato semplicemente con la medesima tecnica con cui è stata applicata per quanto riguarda la banda armata Tokur. Si è detta esistente ed esiste. Se ne parla, si critica e si dà per scontato che esiste, cammina con i suoi piedi. Si è detto esistente l'articolazione di due livelli, uno come lei bene ha illustrato e un altro non di nuclei ma di gruppi, di individui, di associazioni, non so di che genere, e semplicemente perché si è detto esistente questo duplice livello, esiste anche quello. Ma nell'uno e nell'altro esistono nella realtà. Tornando per un attimo, se mi consente, signora, a quello che abbiamo letto nell'articolo, dove c'era tutte queste discussioni che stiamo facendo, tutte queste teorie valgono fino al insindacabile giudizio del singolo anarchico. Se il singolo anarchico decide di fare qualunque cosa esso decide di fare, nessuno glielo può impedire, ma la responsabilità è sua. Responsabilità collettive per gli anarchici non esistono. Che qualcuno sostiene in base a modelli precostituiti di ragionamento l'esistenza di livelli, l'esistenza di... Questo è una cosa che deve essere, a mio avviso, secondo le regole del gioco, comprovata. Non ci si può limitare in base al ragionamento prettamente idealistico di una cosa che per semplice fatto che viene ipotizzata a pagina 5 dell'ordine di cattura, a pagina 21 se ne dichiara possibile l'esame. Perché il metodo è sempre quello. Ecco perché il mio sdegno, principalmente per avermi indicato come capo. Ma voi pensate, ho 62 anni... E posso, con quanto anarchico, lasciar passare l'accusa infamante di essere capo di qualcosa? E peggio ancora di un'organizzazione di cui non condivido. Sa perché? Perché tra l'altro qualcuno ha riferito che lei sapeva tutto di tutto. Tutto anche in tema di rapine da compiere. Tutto, scusi? Di tutto. Sì, quello ho sentito dopo, no? E che si rivolgevano a lei come punto di riferimento, come fonte di consigli. Consigli naturalmente organizzativi in relazione almeno alla commissione di reati. Non so se lei è stato sempre presente in aula, ma qualcuno ha detto proprio così, e lei sapeva tutto in ordine alle rapine da compiere. No, è vero o non è vero? Non è vero questo, perché praticamente le ripeto, ognuno, se parliamo di anarchici, se parliamo di altre persone, non voglio nemmeno, come ho detto all'inizio, io mi interesso di parlare delle cose. Per quel che riguarda la mia persona le posso dire che questo non è assolutamente non pensato. Però aspetti un attimo, io non intendo, come ho detto fin dal primo momento, sottrarmi alle mie responsabilità. Se un compagno viene da me e mi dice tu che ne pensi di un'ipotesi da realizzare un attacco alla banca di Stato dal Tanganyika, io sono pienamente d'accordo, signor Presidente, con una cosa del genere. Però in che cosa questo si differenzia dal discorso che facevamo prima sulla questione dell'istigazione e dell'istigato. Lei seriamente pensa che un compagno anarchico venga da me e ha bisogno del mio beneplacito per chiedere a fare la rapina alla banca del Stato del Tanganica? Ma stiamo scherzando? Ecco perché è importante comprendere la dimensione di vita delle persone di cui stiamo parlando. Perché se si applica un modello validissimo in altre condizioni, in cui il povero, io ne ho conosciuti in galera centinaia, stavo per dire migliaia, ma centinaia, io so come ragiona il piccolo rapinatore, il ladro, cioè sono persone certe volte di gran cuore, persone interessantissime, umanamente bellissime certe volte, ma che hanno bisogno di un punto di riferimento, di qualcuno che le guidi. Ma qua stiamo parlando di anarchici, signor Presidente. Lei seriamente può pensare che un anarchico venga da me per chiedermi un'autorizzazione morale a fare le cose per cui lui è anarchico? Cioè dire come se mi chiedesse l'autorizzazione a respirare. Perché per un anarchico la distruzione del capitale, di cui la banca del Stato del Tanganyika rappresenta un'ipotesi, è essenziale. Ora, tutta la mia vita negli ultimi 30 anni è stata dedicata a combattere principalmente contro la mentalità autoritaria. E guarda caso, mi ritrovo seduto in questa sedia a discutere di un'accusa di essere capo di cosa. Se questo non è, quanto di peggio mi poteva capitare? Perché mi si accusa, come credo accada, e di questo parlerà il mio avvocato, della responsabilità di una rapina di cui io non so nulla, commessa a Roma, eccetera. Io capisco queste cose, sono un pregiudicato per rapina. Succede una rapina, non so, a Mantova e mi portano a Mantova per i riconoscimenti. Non trovo nulla di curioso in questo. Però mi consenta, signor Presidente, c'è una cosa di strano. E che cos'è la stranezza di questo fatto? Non che sia tanto la mia così immacolata coscienza di anarchico sia stata turbata dal fatto che qualcuno ha detto che io posso essere capo di un'organizzazione. Quando principalmente, oltre a questo, principalmente che si possa veramente pensare che tutto quello per cui ho combattuto negli ultimi 30 anni della mia vita sia riconducibile all'interno di una striminzita, amabile, ristretta condizione, banda armata, secondo come è stata teorizzata nelle annotazioni di cui abbiamo parlato. Questo è che mi smuove molto di più lo sdegno, perché dici, vabbè, capo, adesso parole che si dice, cose che... Quindi la banda armata è una cosa troppo piccola per racchiudere il nostro desiderio di libertà, il nostro desiderio di sconvolgere l'esistente. Banda armata, come signor Presidente, probabilmente lei stesso, io non so, ha avuto esperienza nella sua carriera di vedere, di constatare, di esaminare, di leggere, di giudicare, è altra cosa. Lei probabilmente si sarà trovato davanti a individui differenti. Per carità, compagni anche loro di diverso modo di concepire le cose, sostenitori non soltanto di un certo modo di concepire il potere, diverso dal potere in carica, ma desiderosi di sostituirsi al potere in carica, per carità, con tutte le legittimità della violenza trasformativa, rivoluzionaria, eccetera, ma un'altra cosa, signor Presidente. Una banda armata così come viene teorizzata dai carabinieri nelle annotazioni può soltanto sostituirsi al potere, generare un potere di tipo diverso, non può distruggerlo. Difatti non a caso in tutte queste annotazioni si parla di organigramma, di capo, di struttura centralizzata, di... Noi vogliamo distruggerlo il potere, non lo vogliamo sostituire. Nell'accusa sono stati indicati i miei rapporti con Azione Rivoluzionaria, una organizzazione armata libertaria che era attiva all'inizio, alla fine degli anni 70. Nella, mia memoria difensiva, che lei, signor Presidente, dovrebbe, credo, avere, a pagina 4 dichiaro la mia assoluta estraneità. Però per cercare di capire in che modo debba essere intesa questa estraneità a quella organizzazione, peraltro ormai storicamente ben delineata, vorrei leggere alcune righe di un mio articolo pubblicato sulla rivista da me diretta, Anarchismo, il numero 21, a pagina 146-147, anche questa è stata consegnata a voi altri. Io dico in questo testo: il fenomeno della lotta armata, questo testo, quindi precisiamo, datiamolo, è del 1978, è stato pubblicato maggio-giugno 1978, quindi siamo alla fine degli anni 70, e io scrivo in un articolo che si chiama Di alcuni problemi fra i tanti, a pagina 146-147, dico: il fenomeno della lotta armata non è costituito che in minima parte dalle realizzazioni delle organizzazioni armate cosiddette storiche, tra parentesi ad esempio BR, quelle che magari trovano modo di realizzare le manifestazioni più eclatanti, ma al contrario, è soggetto ad esempio il fenomeno della lotta armata, ma al contrario è costituito un vastissimo comportamento illegale e anti-autoritario che minaccia di diffondersi in modo incontrollato, e questo lo Stato lo sa benissimo. Ebbene, lo sanno anche quelle organizzazioni politiche e pseudo-rivoluzionarie, ma sostanzialmente contro-rivoluzionarie, che cercano in tutti i modi di cavalcare la via di questo comportamento generalizzato. Ridurre il problema della lotta armata oggi in Italia 1978 a quello che fanno o che non fanno le BR, o a quello che ha fatto o che riuscirà a fare AR, cioè Azione Rivoluzionaria, di cui mi si accusa, io per questo sto parlando di questo motivo, non è un excursus storico il mio, o AR, è assurdo, è privo di senso. Quindi ridurre il problema della lotta armata a quello che fa le BR o AR è privo di senso. Significherebbe riproporre con tutta l'autorità dell'analisi rivoluzionaria lo schema di ragionamento che torna tanto utile alla gestione spettacolare che del fenomeno. Nel mondo, senza peraltro ben riuscirvi, uso dei mass media e così via. È solo nei tempi in cui questo comportamento anti-autoritario e anti-illegale tende a generalizzarsi, ecco il punto essenziale, la rottura, diciamo, fra il modo di vedere le cose e quello di Azione Rivoluzionaria, tende a generalizzarsi, che si avvicina alla fase che si può definire pre-rivoluzionaria. Ora, nel diffondersi di questo comportamento, anche i compagni più critici non possono chiudere gli occhi. Occorre anche dire qualcosa sul problema, che non è possibile una considerazione uniforme di questa fase 1978. Alcuni compagni si immaginano che essa debba assumere sempre le condizioni della presa del Palazzo d'Inverno, tipo conquista del potere, rivoluzione russa e così via. Altri che essa debba scaturire soltanto da un acutizzarsi delle condizioni della crisi di gestione del capitale. Tutte queste sono opinioni, sono malide, ma non possono mettere singolarmente in dubbio il fatto che il nostro compito rivoluzionario, in quanto anarchici, è quello di spingere gli sfruttati alla ribellione. E io nel 1978 scrivevo esattamente le stesse cose che scrivo nel... Alla rivoluzione, non alla ribellione. Alla ribellione. Vabbè, alla ribellione... distinto tra ribelle e una... Una fase, non sono ribelle, purtroppo non ci posso parlare, è quello di spingere gli sfruttati alla ribellione, quindi alla lotta contro gli sfruttatori, e non quello di stare ad almanaccare sulle possibilità di vittoria delle nostre organizzazioni in caso di scontro. Quindi non ci interessa la vittoria. Qualcuno ingenuamente si chiedeva cosa sarà di AR in caso di vittoria delle BR. Francamente questi dubbi non ci interessano. Possibile che non si sia ancora capito da quale parte sta il compito rivoluzionario degli anarchici? Possibile che ancora si torni a ragionare nei termini dell'etichetta? Possibile che non si comprenda che la vera e sola alternativa è la lotta armata generalizzata, spinta fino al livello insurrezionale, fatto più fatto ben più significativo delle più elevate realizzazioni delle organizzazioni storiche. Questo è quello che dicevo io nel 78. E l'azione rivoluzionaria risponde in un suo contributo pubblicato sulla stessa rivista, però nel numero 25, quindi del gennaio-febbraio 1979, e la tesi è questa, di la risposta al mio articolo. Ci riferiamo, scrivono i compagni di AR, scrivevano meglio nel 1979, ci riferiamo ad alcuni articoli apparsi di recente su anarchismo, in cui, dopo aver constatato il generalizzarsi del comportamento illegale e il carattere pre-rivoluzionario della fase attuale, si vuole al fine dire una parola chiara su quelli che devono essere i compiti rivoluzionari degli anarchici. Date le premesse, ci si sarebbe aspettati una risposta del tipo: gli anarchici devono cominciare a ribellarsi. Niente di tutto ciò. Gli anarchici, secondo anarchismo, cioè dire secondo il mio scritto, devono spingere gli sfruttati a ribellarsi. Nell'interpretazione malevola ciò può voler dire, è la solita vecchia storia, i leninisti, gli stalinisti, eccetera. Nella interpretazione benevola, spinge gli sfruttati a ribellarsi nell'unico modo possibile, ribellandosi e non con fiumi di inchiostro. Questa è la critica. Diamo a meno di un ritorno a vecchie forme di individualismo. Nel numero 21 si salta questa inerzia. Gli anarchici devono capire che la sola... Questo ripete quello che ho detto io. Che cosa significa allora quello che ha detto Bonanno? Dicono chi sta di AR. Significa niente. Ecco, che cosa significa? Punto di domanda. Niente, virgola. O qualcosa di peggio, virgola. Merda o giù di lì. Da una parte si consumano fiumi di inchiostro e così via. Quindi questa è la risposta di AR. Secondo me ogni commento è superfluo. La lettura di questi due testi riguarda la mia personale risposta ai miei rapporti con l'azione rivoluzionaria, che si sono conclusi, come signor Presidente, con la frase di Cambron. Ora, nella mia lettera citata nell'annotazione a pagina 13-14, si tratta di una mia lettera del 30 novembre. E molto attentamente in questa lettera, nella notazione, è riportato un elenco. Lettera indirizzata? Non mi ricordo, perché qua non lo dicono. Non so. Vai, forse. Comunque, pagina 14, non mi interessa il destinatario, quando la lettera del 30 novembre 1992, di cui alla notazione sembra dei carabinieri. C'è un elenco che è interessante secondo me, perché io dico l'intervento di Bonanno dovrebbe invece vertere su ostacoli allo sviluppo di una lotta insurrezionale contro il capitalismo post-industriale allo Stato. E c'è questo elenco. Cioè, cos'è questa lettera? Io scrivevo probabilmente ai compagni greci, non mi ricordo adesso, dicendo quali erano gli argomenti di cui volevo parlare, no, in queste conferenze. Ristrutturazione tecnologica, ristrutturazione politica e militare, crollo del socialismo, vari nazionalismi, possibilità di sviluppo della lotta insurrezionale di massa verso il comunismo anarchico, possibilità di costruire una rete di organizzazioni insurrezionali di massa a livello internazionale, mezzi e obiettivi. Siccome è stato indicato qua, adesso non mi ricordo dove, ma sempre nella notazione, uno a livello del Mediterraneo. Ecco, il discorso era in quella sede di poter eventualmente allargare il rapporto tra nuclei di base, coordinamento dei nuclei di base, non soltanto nella realtà locale, ma anche a livello internazionale. Come si vede da questo elenco, affiora sempre il medesimo discorso sull'organizzazione di massa, organizzazioni di lotta insurrezionale di massa. Ora, queste conferenze che vennero tenute al Politecnico di Atene da me e all'Università di Lettere di Tessalonica nel gennaio del 93, a pagina 22... Se lei lo prende, signor Presidente, a pagina 22 dell'annotazione. È detto Non si tratta quindi significativo, di interventi pubblici, questi di cui stiamo parlando, conferenze fatte alle università, il redattore della notazione si trovò davanti a un problema serissimo. Perché? Dice, qua le cose sono due. O questo testo che noi abbiamo letto, quello delle nuove svolte del capitalismo, pubblicato a me, o è come il redattore insiste, delle annotazioni insiste, o è la base per un'organizzazione armata clandestina, e allora certamente Bonanno non poteva farne argomento di discussione nelle università greche, oppure non lo è, e se non lo è tutta un'imbalcatura del ragionamento casca. Quindi da buon logico deduce, questi interventi non sono stati interventi pubblici come indicato in Galci nell'articolo, perché nell'articolo c'è scritto interventi fatti in Grecia, ma manifestazioni interne alla realtà antagonista anarchica greca. È importante questo passo, signor Presidente, perché come lei troverà là, io in quella occasione ho rilasciato un'intervista al giornale greco, sempre come il nostro Corriere della Sera, l'Eftoripie, che si trova qua, lei dovrebbe avere una copia, dove si parla appunto di queste conferenze. Ci sono due mie fotografie, uno davanti, uno dei profili e così via, ci sono la fotografia di alcuni libri miei, e quindi diciamo una prova oggettiva, non dico tanto perché il giornale possa costituire una prova, quanto perché ci sono magari fotografie. Fare un fotomontaggio di queste cose diventa veramente plateale, e quindi queste cose sono state. Lei le dice che una conferma che. Una conferma che queste pubbliche. La conferenza era pubblica. Pubbliche. All'Università di Tessalonica. E al Politecnico, l'Università di Atene, il famoso Politecnico di Atene. Alla Facoltà di Lettere dell'Università di Tessalonica. Questo giornale è in suo possesso, signor Presidente, quindi non glielo do. Se vuole glielo posso pure dare. Ma in questo momento non posso controllare, perché per controllare dovrei stare 20 minuti a... Ce l'abbiamo? Ah, è questo? Presidente, io ho avuto cura di far portare un fascicolo. Abbiamo dimostrato l'efficienza della nostra cancelleria. Sì. E non la mia efficienza, perché non riesco. Ecco. Sì, ce l'abbiamo. Ma ce l'abbiamo? Non ho altro. Non è lo stesso? Sì, è lo stesso, c'è anche la stessa copertina. Sì, ma ce l'abbiamo, se la può tenere la vista. Ah, d'altro canto, perché l'estensore delle annotazioni incappa in una cosa così clamorosa? Perché evidentemente ha necessità di dimostrare che quel testo di cui ha fatto oggetto centrale, diciamo, della sua tesi accusatoria deve per forza costituire la base per un'organizzazione clandestina. In più, la totalità delle conferenze è stata pubblicata in greco in un libro che sempre si trova lì, e questo qua. Due conferenze, queste soltanto le conferenze a Tessalonica, con il dibattito. Ora, altro argomento, pagina 5 e 6 della mia memoria. 5 e 6. Ecco. A pagina 18 dell'annotazione, quindi a pagina 18 dell'annotazione c'è scritto: al termine, no, dunque, dall'annotazione c'è scritto dal 13 al 15 maggio 1988. Il 15 maggio 1988 ebbe corso a Forlì un convegno antimilitarista organizzato dalla FAI, scrive il dottore. Buonanno Alfredo ed altri che avevano invitato, tra virgolette, i proletari a fare propria l'azione diretta sovversiva fuori e contro ogni delega, venivano accusati di terrorismo dagli oratori ed estromessi dal congresso. Su questo punto nel dossier dovrebbe esserci una dichiarazione della Federazione Anarchica Italiana, la quale sostanzialmente dice, io cito da qua, i recenti fatti repressivi amplificati dalla stampa, si riferisce agli arresti del 70, del 96, sulla base dei comunicati della magistratura e dei ROS, rappresentano un'articolazione furbesca delle nuove tecniche di controllo sociale basato sull'invenzione di appartenenze, congressi, espulsioni, ruoli di comodo. Espulsioni che non si sono mai verificate. Esattamente. In particolare la FAI non ha tenuto un congresso a Forlì. Non era un congresso della FAI. Mi dispiace per l'estensore. Nel 1988, nel proprio patto associativo, non prevede l'espulsione, a maggior ragione nei confronti di chi non ha mai aderito ad essa. Eccetera, eccetera. Quindi, questo è... Ora, fra i miei tanti processi di cui le accennavo prima, signor Presidente, ce n'è uno significativo che riguarda, perché ci introduce nell'ambito del problema del sabotaggio, e riguarda un volantino che è stato pubblicato sulla rivista Sembra Anarchismo, al numero 55, pagina 13-14, riguarda, che porta come titolo, riguardante l'incontro Gorbaciov-Reagan, se si fossero messi d'accordo cosa sarebbe cambiato? E poi continua più sotto, invece, segando appassionatamente nella pagina che segue. Nella pagina che segue si trova riportata la traduzione di un volantino tedesco che indica il modo e la tecnica per segare un traliccio dell'alta tensione. Io sono stato imputato una serie di processi per questa pubblicazione qua. In primo grado sono stato assolto e in secondo grado condannato a 8 mesi. Poi la sentenza della Corte di Cassazione mi ha rigettato il processo alla Corte d'Appello di Catania con questa motivazione, che mi sembra importante leggere due righe perché ci aiuta a capire il funzionamento. Sì, sì, scusi. Ci aiuta a capire il funzionamento del dar vita a qualcosa che non esiste e farla camminare da sé. Quello che è avuto qua. La Cassazione dice, in ordine al denunziato travisamento del fatto rilevato nel rapporto dei carabinieri di Torino, si legge testualmente, in data 11 novembre 1987, scrivono i carabinieri di Torino, è apparso sul quotidiano La Stampa un articolo di cronaca dal titolo «Segato traliccio che alimenta centrale nucleare in Bologna». Visto il contenuto dell'articolo, dice il rapporto dei carabinieri, e le modalità operative attuate dai sabotatori, si ha l'impressione che gli autori abbiano preso spunto, da un articolo pubblicato a pagina 3-14 della rivista Anarchismo, eccetera, eccetera, questa che abbiamo visto. Ora, la legge della Corte di Cassazione dice, nel citato rapporto, i verbalizzanti prospettarono dunque solo una ipotesi, fondata su una loro opinione, che avrebbe dovuto essere verificata in sede giudiziaria, corredata da prove, e che invece, senza controllo alcuno, è stata trasformata in una tesi e ritenuta attendibile. Il procedimento è sempre quello. Orbene, se il travisamento di fatto, e poi continua per i motivi per cui, secondo l'estensore della cosa, l'articolo non può ritenersi legato da una condizione logica di causa ed effetto. Io pubblico l'articolo, il tizio taglia otto legge. Questo non è stato provato. I carabinieri si sono limitati semplicemente a dire, siccome le modalità riportate da un giornale, sembrano peraltro essere simili, ed ecco che mi condanna a 8 mesi e la Corte Cassazionale ci manda indietro, e poi la Corte d'Appello di Catania, in sede di un ulteriore processo, accetta la tesi della Cassazione e mi assolve. Definitivamente. Prego. L'assolve definitivamente. Non ci fu appello contro il ricorso in Cassazione? No. Insomma, è finita la cosa. Non... Signor Presidente, mi scusi se intervengo. Volevo chiedere al signor Bonanno di chiarire anche per il giudice popolare tutto questo processo, qual è il tema, perché i giudici popolari non lo conoscono, la questione dei tralicci, altrimenti risulta poco chiaro questo discorso. Ma perché dice che non lo conoscono i giudici popolari? Perché lo dice? Che non conosciamo. Ma no, guardi che conoscono tutti i giudici popolari. Anche del processo sui tralicci, per questo fatto. E da quanto tempo che ci vediamo noi qui in quest'aula? Mi sembra da più di un anno. Comunque, secondo me, la questione dei tralicci ci aiuta su due argomenti: l'argomento del sabotaggio e l'argomento della non connessione logica fra lo scritto. Questo mi interessa da un punto di vista. Abbiamo la sentenza. Sì. Ora, un altro piccolo, perché tutti questi elementi, diciamo, che sembrano scollegati uno con l'altro, ci aiutano a capire meglio il modo in cui è stata condotta il lavoro critico, perché di tale tipo di lavoro si tratta, dell'estensore delle annotazioni. In quanto per la prima volta probabilmente in vita sua l'estensore delle annotazioni si è trovato davanti al tentativo di dar corpo, fondare, analizzare, approfondire una teoria, non dei fatti, e quindi si è trovato in difficoltà, io mi rendo conto, ma non è compito mio aiutare i carabinieri. Ora, ad esempio, a un certo punto si lascia andare ad una, nell'annotazione a pagina 23, dice... Tra parentesi, parlando di una, riportando abbastanza esattamente una mia frase, dice: si tratta, nota del redattore, quando io dico riguardo le analisi si cercherà di farle circolare il più possibile in mezzo alla stampa nostra, come dire, frase per noi molto corrente, la stampa nostra si intende il nostro giornale, no? E lui, tra parentesi, precisa, nota del redattore, c'è scritto punto, intesa, la stampa nostra, intesa come pubblicistica a circolazione interna. Io per tanto tempo mi sono chiesto, ma perché sta preoccupazione di chiarire, di specificare questa cosa? Invece è importante, perché giustamente un'organizzazione armata clandestina non può avere una stampa ufficiale, che senso avrebbe? Ha una stampa clandestina, se non sarebbe un'organizzazione clandestina. Ma guarda caso, anarchismo, tutta la nostra stampa ha l'autorizzazione del Tribunale di Catania, ad esempio anarchismo numero 434 del 14 gennaio 1975, in più si trova riportata come previsto dalla legge su ogni fascicolo, in più vengono consegnate 8 copie alla prefettura. Come basta improvvisamente invece tutta questa attività, peraltro ineccepibile, viene considerata clandestina? Oppure sarebbe meglio dire viene clandestinizzata. Prima di chiudere, che mi pare si è fatto tardi, vorrei soltanto portare alla sua conoscenza, signor Presidente, questi due esempi a cui ho fatto riferimento prima, quello di compartimento dei ferrovieri di Torino, e questo è il documento organizzativo del nucleo autonomo di base, il primo nucleo autonomo di base che si costituì a Torino nel 1900, glielo dico subito, 1977, quindi diciamo abbastanza prima che si parlasse correntemente di COBAS o di altre cose. Ora, in questo piccolo documento io ho accennato nella memoria a pagina 8 e vorrei leggere la pagina che riguarda che cos'è il nucleo autonomo di base, che si trova a pagina 7. Stiamo parlando quindi di un'organizzazione di operai, lavoratori, ferrovieri di Torino, che nel 1977 trovò un certo sviluppo e che cercò anche di allargare la propria capacità di incidere nelle lotte che in quel momento si stavano sviluppando a Torino, collegandosi anche con altri settori abbastanza simili, ad esempio i lavoratori degli autobus, dei trasporti urbani. Quindi, però a noi interessa stabilire perché qua si parla di nucleo autonomo di base, perché questo ci può essere utile per capire meglio quel concetto di prima, no? Quindi si pone il nucleo, si pone come organizzazione che intende distinguersi dai sindacati confederali e dai sindacati autonomi. La sua autonomia qualifica la struttura che intende darsi in senso antiburocratico. È basato quindi sulla eliminazione della delega permanente e sulla negazione della professionalità dei rappresentanti. Tutta la base è impegnata nella lotta contro i patroni e i loro servitori. Questo impegno di lotta è costante e non è limitato ai soli periodi dello sciopero. Ogni componente, il nucleo autonomo di base, si considera permanentemente in lotta contro i patroni, eccetera, eccetera. Il nucleo di base non è legato a nessuna ideologia sindacale o partitica. L'attività di propaganda e la realizzazione delle lotte precise dirette a ottenere risultati viene fatto con mezzi assolutamente autonomi. L'adesione al nucleo di base è la logica conclusione di tutti coloro che cercano di migliorare la propria situazione. Non è stato lei a scriverlo? Sì, io sono stato. Sì. Perché diceva non sono stato io? No, perché, perché volevo sapere se l'idea del nucleo di base era un'idea sua, sì, o invece lei aveva già utilizzato, aveva utilizzato questo concetto. No, questo l'ho redatto io. Ecco, momento, quando dico sempre l'ho redatto io, pecco un poco forse di presunzione, l'ho redatto discutendo con parecchie persone, no, compagni e non compagni. Perché l'idea è sua, quella del nucleo di base, questo volevo dire, senso perché tutto. Se non fosse stata sua, non avrebbe senso. Allora lei lo avrebbe detto. Certo. Quindi alla pagina finale, alla pagina 14, sempre del documento dei Ferrovieri di Torino, c'è scritto: il nucleo autonomo di base è un organismo di lotta per la difesa dei ferrovieri che intende affermare il principio di autonomia della lotta di conflittualità permanente, che come si vede sono i medesimi concetti di cui si parla nell'articolo che dovrebbe invece costituire la base di un'organizzazione armata clandestina. Siamo abbastanza lontanucci, secondo me. Se mi è consentito, signor Presidente, ecco, adesso parlerei di questo. Poi abbiamo il documento. Il modello, come vede, questo venne realizzato a Comiso, dove non c'erano nuclei di base, ma erano chiamate, cioè era la stessa cosa, ma erano chiamate leghe autogestite, che dettero vita in questo caso, essendo parecchie, in quanto in tutto il Ragusano per 2 anni si costituirono decine di queste leghe, quindi dettero vita a un coordinamento che qua, di cui qua, come lei vede, c'è anche l'indirizzo a Comiso. C'è anche il numero di telefono. Sì. Sa, signor Presidente, se mi consente una piccola... Nel corso di 2 anni di propaganda, davanti al petrolchimico di Gela, siamo stati fermati dalla polizia e portati in questura. Gli operai del petrolchimico hanno fatto intervenire i loro dirigenti sindacali per chiedere che cosa era successo. La polizia, come spesso, calcando la mano, succede, gli disse che eravamo dei terroristi e che quindi era giusto che ci avevano fermato. E giustamente gli operai nella loro ingenuità dissero: ma come mai ci sono dei terroristi che hanno pure l'indirizzo e il numero di telefono? Insomma, mi pare curioso. Quindi io non vi tedio ancora, però vi vorrei richiamare a pagina 4 i principi generali: conflittualità permanente, autogestione e attacco. Sono i medesimi, signor Presidente, che lei trova nell'articolo di cui... Anche questo opuscolo è stato compilato principalmente sempre da lei. Bravo, la parola esatta. Sì. Ora, perché, prima di chiudere, lasciatemi dire 2 cose. Mi sono chiesto un perché gli anarchici. Perché? Perché il 12 dicembre la bomba a Piazza Fontana? Perché l'assassinio di Pinelli? Che significa? In fondo... Io non sono tanto stupido da non rendermi conto che gli anarchici nella realtà sociale italiana e internazionale oggi cosa costituiscono. Meno che nulla fosse più un fantasma che una realtà, un'idea che non è capace di realizzarsi in uno sviluppo quantitativo, sembrerebbe un'utopia. Invece io penso che gli anarchici siano molto pericolosi, signor Presidente. Perché rappresentano a livello di coscienza il desiderio che ognuno di noi ha di una vita diversa, una vita libera, senza la tristezza che quotidianamente ognuno di noi sperimenta, una vita più bella, appassionatamente più bella. E per questo non hanno paura di dire che sono nemici dello Stato. E non è che ci sono nemici dello Stato. Certo, da soli non possono avere quella pericolosità che la scelta di tanto nemico meriterebbe. Però ci sono degli alleati incredibilmente potenti degli anarchici. Si nascondono fra la gente comune, fra la gente che ha bisogno di trasformare la propria vita, la propria situazione, che basta un piccolo cenno, una piccola cosa imprevedibile che potrebbe succedere. Non sono i partiti, non sono le grandi ideologie repressive, non sono i grandi progetti di conquista del potere che significano per la gente qualcosa nel momento in cui si gioca la propria vita. Ecco, gli anarchici in quel contesto significano qualcosa. Difatti, tutte le volte che c'è la possibilità per la gente di poter prendere coscienza, non il modo di vedere la vita degli anarchici, ma il modo sostanziale in cui gli anarchici vedono la vita, diventa portato della singola esperienza di ogni individuo. Non occorre leggere i libri scritti dagli anarchici, non occorre sapere cosa vuol dire la differenza tra gruppo di affinità o nucleo di base. Queste sono faccende da specialisti. È questo che fa paura. Il fatto che l'anarchico potrebbe essere il compagno di strada di milioni di persone che a un certo momento, al di là delle barriere ideologiche, della stessa situazione di classe, per quello che oggi può significare ancora questa parola, potrebbe scendere in piazza. Allora sì che lo Stato potrebbe avere paura. Possiamo dare la parola al pubblico ministero per qualche eventuale domanda? Io chiedo una breve sospensione. Una breve sospensione. Va bene, 10 minuti però. Sì. Fra 10 minuti ci vediamo. Il pubblico ministero, sia tra noi avvocati, hanno prospettato una certa situazione. Quale pubblico ministero? La vuole riferire? No, perché c'è l'avvocato Schipani che è venuto e mi ha detto che c'è la Remoli che è amata e che era citata per oggi per essere sentita. Allora, io credo che il Presidente ha privilegiato la signora Remoli che sta in una situazione. Sentiamo la Remoli ed eventualmente rinviamo per sentire ancora Bonanno a chiarimento di tutto quello che ha detto oggi in una prossima udienza. Anche per raccogliere, perché ha fatto un'esposizione abbastanza lunga, articolata, no? Per vedere esattamente bene perché eventualmente. I signori avvocati non stanno da dire. L'avvocato Di Maggio, dunque, la signora Remoli era nella lista testi dell'avvocato Calia, la quale non ha citato la signora Remoli per l'udienza di oggi, e tra l'altro l'avvocato Calia mi ha pregato di dirle che aveva un aereo da prendere, quindi è dovuta. 5 minuti fa ha dovuto lasciare l'udienza. In sostituzione, quindi dove sta? Dice che deve fare domande alla Remoli, allora fa la domanda alla Remoli e poi non fa la prima. Avvocato Schipani, vuole in qualche volta quello che mi ha detto la signora Remoli che è venuta? Sì, fuori. Se no. Presidente, fuori c'è la signora Remoli che in effetti è stata citata. Come teste della difesa dall'avvocato Calia, quindi non è una mia teste. So che l'avvocato Calia è dovuto andare via, credo che abbia lasciato. L'avvocato Calia è stato sostituito da un altro avvocato, peraltro. Ecco, quindi io ovviamente diciamo che informalmente faccio presente che la signora è sulla carrozzella. È riuscita a venire oggi, non sappiamo se ci riuscirà un'altra volta e quindi se fosse possibile sentirla oggi. Stesso l'avvocato Calia però. Si ha lasciato istruzioni all'avvocato Di Maggio. Ha lasciato istruzioni all'avvocato Di Maggio? L'istruzione era questa, che so che non l'aveva citata per l'udienza di oggi, per cui proprio perché sa che ha questo impegno. Io chiederei comunque di sentirlo in un'udienza in cui è presente l'avvocato Calia. Se non è possibile, a questo punto, in sostituzione all'avvocato Calia, rinuncio al testo. Fate di tutto per complicare la situazione. L'ambasciatore non porta... L'avvocato Calia, ovviamente io comunque chiederò col 507 di sentirla, se è possibile. Lei, professore Bonanno, vive a Catania, no? Sì, signore, ed è particolarmente faticoso per me. Sì, immagino. Infatti non ho dormito stanotte, per cui... Beh, vi siamo di comune accordo con l'udienza. Bonanno, abbiamo aspettato lei per tanto tempo, adesso che viene un'altra udienza non mi sembra che sia... Se la sente di venire un'altra udienza, sono 10-10 giorni. Col calendario alla mano, vediamo di fissare un altro giorno. Allora, guardiamo. Presidente, però la Remoli abita a Roma. Io adesso non sì, voglio... sì, adesso aspettiamo. Adesso ci troviamo alla Remoli per la prossima udienza. Scusate, ma è malata, sta sulla sedia a rotelle. Vediamo. Sì, appunto. Allora, intanto per quanto riguarda il professor Bonanno, tu non puoi... Vediamo un giorno, in cui si arriva. C'è il test. Il 15 dicembre. Se la sente il 15 dicembre? Va bene. Perché... probabilmente potrà durare anche molto questo seguito di esame, potrebbe durare abbastanza questo seguito di esame, perché le faranno domande il pubblico ministero, la parte civile. Parli al microfono però, perché così viene registrato. Però forse ho un impegno nel pomeriggio. Qua a Roma. A Roma, benissimo, allora va proprio bene il 15 dicembre. Sì, proprio lega... perfetto, però se no, dovessimo. No, di mattina si finirà sicuramente di mattina. Benissimo, allora per il 15 dicembre la mattina verrà. Vabbè, grazie, signor Bonanno. Grazie a lei. Proseguirà quindi l'esame per quel giorno, signor Bonanno. Allora sentiamo la signora. Come si chiama? Remoli. No, Remoli è niente tra le imputate. No. Però c'è connessione, quindi deve essere sentita per questo articolo 210 CPP, perché fu considerata imputata nel processo di quello che si è svolto davanti alla Corte d'Assise di Parma. Sì, e poi però quando l'ha sentita la Corte d'Assise di Appello di Lindino, per il processo si dà. L'hanno sentita come stessa. Comunque, pubblico mistero. Per me non ha. Io non l'ho citato. Sentiamo gli avvocati. Come la dobbiamo sentire? Come teste o come imputata di reato connesso? Tenendo presente che la Corte d'Assise di Parma ha assolto la signora dal reato di associazione per delinquere. La sentiamo come testa, signori, sull'accordo delle parti? Allora, sull'accordo di tutte le parti? Anche queste per... Presidente, io ho rinunciato a questo testo, quindi non è più della difesa. Non possiamo sentirla come testimone pubblico mistero. Scusate, c'è qualcosa che si dà in casa? Corriamo il rischio di compiere un atto invalido. C'è un avvocato qui? Io ce l'assisto io. Ah, eccolo, può assistere lei, certamente. Venga, signora, si avvicini. Lei si chiama, signora? Remoli Roberta. Remoli Roberta. È nata quando? 18.342. Dove? A Roma. Lei fu imputata di un reato connesso, un reato di associazione per delinquere, e fu assolta dalla Corte d'Assise di Parma. La relativa sentenza è passata in giudicato. Peraltro lei ancora conserva la facoltà di non rispondere alle domande che le potrebbero fare, tanto più che è moglie di Sforza Antonio e madre di Sforza Roberto, Fabio e poi c'è anche Massimo. Vuole rispondere alle domande? Certo, sono venuto apposta. Benissimo. Allora, incominciamo con la difesa. Io ho rinunciato a questo test, quindi se la sentiamo, la sentiamo ai sensi 507. Io l'ho detto. Lei ha rinunciato, la difesa ha rinunciato alla discussione della signora, ma la Corte d'Assise non ha revocato l'ordinanza di ammissione. Sì, sì, no, era solo per noi. Allora, chi vuole fare le prime domande alla signora? Le fa la parte. Io le posso. La schippare. Allora. Sì, via, signora, io le informo che può essere presente un suo difensore. Non è presente nessun difensore di fiducia, allora le nomino come difensore l'avvocato Schifani. Sì, allora cominciamo a fare domande. Signora, ci può dire le sue condizioni di vita, dove abita, i rapporti di parentela con gli imputati Sforza Antonio, Fabio, Massimo e all'epoca dei fatti dove abitavano? Abitavo in via Ostiense 254, dove abito tuttora. Sì, ed è la moglie di Sforza. Sono la moglie di Sforza Antonio, la mamma di Sforza, insomma. Di Sforza. Prima domanda, prima risposta, poi. E le sue condizioni di vita, cioè dal punto di vista economico, come state? Sono disastrata, sono esattamente, devo dare 40 milioni al comune perché non pago l'affitto. Sono la luce staccata e poi le altre miserie che ho. Non... Senta signora, nel 91 si verificarono dei fatti, sì, nella sua casa e nella sua famiglia. Ci vuole dire brevemente? Nel 91 si verificarono dei fatti che io ero all'oscuro di tutto, cioè sono venuta a conoscenza da delle cose perché ci sono state delle perquisizioni in casa. Frequentavo dei ragazzi stupendi e mi è crollato tutto addosso, Presidente, quando è successo questo. Quando ci fu la prima perquisizione? Sì, venni a conoscenza di delle cose che io non assolutamente, ancora tutt'oggi, non posso pensare che siano così, veramente. Come si sono. Presidente, le permetto una cosa, che io ho avuto conoscenza di questi ragazzi tramite mio marito e sapevo che lavoravano tutti, ognuno di loro aveva un suo lavoro, davanti a me non si è parlato mai di niente. E per questo che io veramente ci sono rimasta molto, ma non male, proprio mi è crollato proprio il tetto addosso. Sapendo che potevo avere avuto a che fare con questi ragazzi che non erano quelli che io pensavo. Perché non senti mai parlare di politica? Davanti a me mai di niente. Di strutture, di compartimentazione? Mai sentito parlare? No, no, Presidente, davanti a me si parlava di pasta asciutta, di minestrone e roba del genere, perché io cucinavo anche per loro, sapendo che erano soli a Roma e tutto qua. Poi, fate domande. Queste persone, che cosa le disse? Cioè, come li presentò e lei che cosa seppe di loro, delle loro attività? Sì, io sapevo che uno studiava architettura, uno falegname. In primo tempo mi è stato presentato Nino, non so se De Blasi. E sapevo che era rappresentante di biancheria intima, che poi però Torino mi ha detto questo, si vede che non va avanti, mi ha chiesto di, mio marito lei sa meglio di me che è un pregiudicato, mi ha chiesto di aiutarlo ad aprire delle macchine con dei ferretti, ho detto Torino non ti impicciare, sono bravi ragazzi, una cosa è morta lì, più di lì non è andata, anche perché io sono non dissociata dal lavoro di mio marito, per carità, però certo avrei voluto fare una vita diversa, e una cosa diversa. Poi dopo le cose. Allora, uno diceva che vendeva questi articoli di biancheria, altri cosa dicevano? Allora uno faceva il falegname. Chi? Lillo. Faceva il falegname. Carlo faceva l'architetto, che io con l'aiuto di mia madre volevo aprire una pizzeria in questa casa, perché questa casa cantoniera, e volevo aprirci una pizzeria per far sistemare lì i ragazzi, poi non ce l'ho fatta finanziariamente e mi fece un disegno per un piccolo progetto. Come progetto, sì. Sì, Poi Lucia faceva l'hostess, di questo non avevo dubbi perché imparava inglese anche mia figlia e perché ogni tanto, veramente, un hostess ogni tanto viaggia, lei viaggiava, non so. E poi, non lo so, Livia era la ragazza di Lillo, comportata sempre magnificamente, poi hanno litigato, questo ragazzo era un po' strano, però tutto su una cosa buona, non su una cosa che io potevo pensare cose aggressive o cose di per carità. E niente, ognuno di loro aveva un'attività a mia saputa. Amici di suo marito che faceva il ladro e frequentavano molto assiduamente la sua casa. Quindi al di là di queste attività lecite che le dicevano, lei qualcosa pensava, ha chiesto qualcosa a suo marito, cioè perché i rapporti con lui erano così stretti? No, le spiego, avvocato. Il primo a conoscere è stato Nino, che poi ha portato Lucia e poi ha portato tutto il resto della compagnia, al che si sono inoltrati con molta tranquillità, che per me, avendo tutti l'età dei miei figli, cioè mi sono sentita, come per dire, come una ghioccia, forse sbagliata, ma non so, per fare da mangiare. Ormai era diventata un'unica famiglia che si parlava di cose normali davanti a me. Poi dietro, che mio marito li frequentava per altre cose, perché io in tante volte gli dicevo: ma sai che cosa dite? Ma sai, sono ragazzi. Anche lui faceva il vago, anche perché io avevo i primi sintomi della malattia, però ancora non si sapeva che cosa aveva, allora ero un po' nervosa, un po'. Quale malattia sta? Io ho la sclerosi multipla a placche e con pochi anni sono andata a finire in carrozzella. All'epoca stava bene? Stavo benino, però cominciavo ad avere un po' di sintomi strani, ero un po' nervosa, mi irritava qualcosa, però davo tutta la colpa, magari, che sa, con 5 figli, che vuole? Un marito che fa questa vita non è che è tutto oro. Essendo poi stata figlia unica, benestante, avevo scelto da me questa galera, non è che mi devo dare la colpa a nessuno, però dopo mi pesava veramente. Dopo il 91 avete parlato in famiglia di questa situazione, vi siete scambiati notizie su queste persone, ci può dire qualcosa? Sì, dopo il 91 se ne è parlato perché io volevo chiarimenti, ma ognuno di loro me li dava e non me li dava a stralci, perché io avrei accusato mio marito che se sapeva qualcosa non doveva permettersi di portare questa gente in famiglia, prima cosa, perché io ho i figli, già sbagliati che sono, però volevo almeno, cioè, stare tranquilli. E allora, per non essere accusati di tutto questo, sempre: ma sì, ma sai, noi non sapevamo, poi sapevamo, poi alla fine sapevamo. Io ero l'unica stupida che non sapevo, né io, né la bambina e né il quarto genito che non viveva a casa mia. Quindi davanti a lei non ha avuto nessuna notizia diretta da loro di attività svolte insieme ai suoi familiari? No, mai. Riguardo quando voi parlavate tra di voi di queste storie, eccetera, ad esempio, non so, per quanto riguarda la questione della sparizione di Nino, che cosa ci può dire? Prima mi hanno detto che stava male, poi dopo ho saputo quello che ho saputo. Cioè che era morto? Che era morto. Da chi l'ha saputo? L'ho saputo, ora non mi ricordo bene, però mi sembra che uno della famiglia me l'abbia detto, che me l'abbia detto Fabio, però non mi ricordo bene. Mi ricordo solo una cosa, Presidente, che una volta feci un viaggio con Lucia, che doveva andare a riscuotere degli affitti della zia di casa a Napoli, e ci ho detto: portami pure a me. E sono andata, e per la strada mi ha detto che Nino era morto ed era stato sepolto Era morto come? Solo che era morto. Basta. Ed era stato sepolto? In un campo. Ed era stato sepolto? In un campo. In un campo. E tant'è vero che io non in un cimitero, in un campo. Sì. E lei allora disse, ma mi sono terrorizzata, Presidente, però pensavo che scherzava, cioè, ho pensato in quel momento, dico, questa mi sta dicendo una stupidaggine, vabbè. Non si spaventa per uno scherzo? Non si spaventa per uno scherzo? Cioè, o è uno scherzo o lei la prende sul infatti quello che gli ho detto, gli ho detto ma che è uno scherzo, allora lei si è annuito, si è messa a ridere e ho pensato a uno scherzo, pensato. Poi dopo non ho voluto più né